Gesù, quanta ingiustizia lui subì per voler curare tutti noi, quanta luce e grazia lui donò per trasfigurare tutti noi, uno di noi Gesù, uno per noi Gesù. Vino lui offrì per poter sfamare tutti noi, quanto sangue e acqua lui versò per poter salvare tutti noi, uno di noi Gesù, uno per noi Gesù.